forte cazzone con uno stemma a rete. Una cuppulella che vi si era aizzata. Passa scampanianna pattuleta. Con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senti a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella. Te li dan la borsetta di mamma tua, fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano. Come ta può capire chi ta va bene, si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua, fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente, fa ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu o fa l'american, tu o fa l'american. Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll.